guardo politico, sono una frase elettorale. Se la gira non è speculazione, dagli alberi nasce l'ispirazione. Vieni fare per il bene di tutti. Molto meglio di scuola e resta, 3-4 foglie sono davvero poche. È troppo da sopportare, 7 milioni erano solo 20. Peggio la vita che uccidete. Teniamoci la testa, salviamole, lasciate vivere gli alberi, basta. Testa, basta, basta. Non uccidete la vita, basta. Siamo pieni del solito cemento, dei render insostenibili, poveri alberelli compensativi, rigenerare il meglio possibile. E basta, lo spreco è giusto. Un lato politico è salvare alberi, è parte della soluzione. Può aiutare la transizione nel consumo di suolo, la riduzione. Un lato politico che ancora non vediamo. Teniamoci la testa, salviamole. Lasciate vivere gli alberi, basta. Festa, basta, basta. Non uccidete la vita, basta. Fanno scuola le scuole besta, lo bosco santo non è un reparto. Le persone aggrappate agli alberi, le tende cullate dal vento, non è grande, ma non difenderemo. Teniamoci la testa, salviamole, lasciate vivere gli alberi, basta. Testa, basta, basta, non uccidete la vita, basta. Manifestare giusto, io posso. Tre persone troppo, basta. Mancano le lapide perché, come sugli alberi le foglie, resistere. Non uccidete la bestia, non uccideteci. Rispettate la vita, farfalle, fiori, frutti, gli esseri viventi tutti. Thank you.